piano. Di Enrico Ruggeri. Nel canale della Manica, a pochi chilometri dalla costa francese, ci sono due piccole isole che si chiamano Jersey e Guernsey. Sono dipendenze della Gran Bretagna, anche se c'è una forte influenza francofona che si fa sentire anche nei nomi dei paesini dell'isola, che sono tutti nomi francesi, e nei cognomi degli abitanti che, anche se sono cittadini britannici, hanno quasi sempre un cognome francese. Da questo compromesso territoriale parte la storia del personaggio di oggi, che è un calciatore. Però è un calciatore anomalo, un calciatore di cuore, un calciatore che ha trascorso tutta la sua carriera in una sola squadra, diventando un simbolo per una città che è sempre stata una città di provincia, anche calcisticamente. È un uomo che ha rifiutato le offerte delle grandi squadre per vivere la sua vita, una vita senza troppo stress. Un uomo che si è accontentato di trovare nell'affetto dei suoi tifosi la spinta maggiore per giocare ad altissimi livelli. Quest'uomo si chiama Matthew Letizia. Ho avuto un'infanzia felice a Guernsey. Non avrei potuto desiderare un posto migliore per crescere. In un ambiente protetto, con uno stile di vita molto rilassato, che ha contribuito a fare di me quello che sono diventato. 14 ottobre 1968, nell'isola di Guernsey, su questa piccola isola di pescatori sferzata dai venti della Manica, nasce lui, Matthew Letizia, e il suo nome la dice lunga, insomma, perché incarna il dualismo degli abitanti dell'isola: nome inglese, cognome francese, come un ponte tra due culture, due lingue diverse, due popoli diversi. Oggi i borghi dei pescatori hanno lasciato posto alle banche, perché l'isola è un piccolo paradiso fiscale che attira il denaro straniero. Ma a parte questo, Guernsey è un'isola a misura d'uomo, dove il tempo sembra scorrere più lentamente che nel resto del mondo. Bene, Matthew cresce in questo ambiente che gli permette di divertirsi, di stare all'aria aperta in modo genuino. C'è stato un momento molto felice della mia infanzia in cui potevo uscire all'aperto e provare qualsiasi tipo di sport. E questo ha aiutato il mio sviluppo, la coordinazione e tutto ciò che mi è servito per diventare il calciatore che sono stato per 16 anni. Il calcio è lo sport che attira più di tutti il ragazzino, il piccolo Matt, che è l'ultimo di quattro fratelli, quindi si abitua da subito a giocare coi più grandi. Quando ha 8 anni partecipa a un torneo under 11 e tutti si stupiscono nel vedere questo bambino piccolo che tiene testa a quelli più grandi di lui, perché tra 8 e 11 c'è una bella differenza. Lui ha già in mente cosa vuol fare da grande, è il sogno di tutti i bambini, e anche il suo sogno: vuole fare il calciatore, e ne è fermamente convinto. C'è solo un problema: che a Guernsey non ci sono squadre importanti, anzi non ci sono proprio squadre che giocano nelle leghe inglesi, anche se in Inghilterra anche il più piccolo villaggio ha la sua squadra, ma qui in questa isoletta no. Insomma, il trasferimento in Gran Bretagna è l'unica soluzione. E lui, mentre è un bambino, gioca ancora lì, un ragazzino, nella squadra giovanile locale, segna 169 gol. Certo, forse l'ambiente calcistico fa anche risaltare uno che è appena più bravo della media, e non si sa ancora se è un campione, e peraltro fa un provino per l'Oxford e non viene preso. Intanto è diventato un uomo, è alto 1,87 m, è massiccio, non è velocissimo, e questo può essere un handicap nel calcio inglese, che si basa tutto su quello che una volta si chiamava il kick and run, no? Dai e vai, la velocità, lo scatto. Però ci sono i campus estivi e i genitori diventano fondamentali per la sua carriera, perché sono loro a spronarlo a tentare di nuovo un provino. Mamma e papà ebbero una parte importante, perché loro avevano paura che, stando sempre sull'isola, non avrei avuto molte possibilità. E così in estate mi iscrivevano a scuole di calcio in Inghilterra. Fu così che mi iscrissero a un corso a Southampton. Io mi sentivo pronto per lasciare l'isola e non avevo paura di farlo, anche se avevo 16 anni. E al Southampton le cose cambiano, lui fa bella figura, gli propongono di entrare nelle giovanili del club, e la famiglia accoglie l'idea con entusiasmo, anche perché Southampton è una cittadina del sud della Gran Bretagna, è proprio di fronte all'isola di Wight. È il posto da cui è partito il Titanic, peraltro. È un posto tranquillo, è lontano dalla caotica Londra. Insomma, è accessibile anche per un ragazzino di 16 anni che per la prima volta si allontana dalla casa dei suoi genitori da solo. Quando fu il giorno di lasciare Gursney per Southampton, non avevo idea di dove avrei dormito quella sera. Ero solo un sedicenne innervosito dal fatto che non sapevo cosa mi aspettasse. Ma era un rischio che valeva la pena correre per diventare un calciatore professionista. Un viaggio difficile, certo, ma che valeva la pena di essere fatto. Il falco e il gabbiano. Il nostro protagonista di oggi, Matthew Letissier, passa un solo anno nella squadra giovanile a Southampton e poi è già in prima squadra. Siamo nell'86. Il Southampton gioca nella First Division, che in quegli anni è la Serie A inglese, perché ancora non c'è la Premier League. Li chiamano i Saints perché quando la squadra era stata fondata nel 1885 era la squadra della chiesa di St. Mary. Il Southampton è la classica squadra che continua a salire e scendere dalla prima alla seconda divisione. In quel momento è una squadra da metà classifica. L'unico trofeo importante nella sua bacheca è una FA Cup, una Coppa d'Inghilterra del 76, però gioca in uno stadio speciale, lo chiamano The Dell, la conca, all'interno del quale i tifosi abbracciano la squadra, e sono i classici stadi inglesi meravigliosi nei quali sei veramente al centro di qualcosa di forte, di sensazioni forti. La città è piccola, come spesso accade in Inghilterra. È finita la partita, ti può capitare di trovarti seduto al pub accanto al tuo idolo, magari al centravanti della squadra per la quale hai appena pagato il biglietto. Bene, Southampton, insomma, è una città a misura d'uomo e questo ambiente piace molto a Matthew. Il primo contratto era da 26 sterline la settimana, il secondo anno 35. Mi sembrava avessimo diritto a un bonus di 4 sterline per la vittoria e 2 per il pareggio. Certo, non erano molti soldi, ma a me non importava nulla dei soldi. Eh sì, bello, a quel tempo succedeva che ci fossero ragazzi di 17-18 anni che non avevano già il chiodo fisso di guadagnare dei soldi. E intanto Letizia si fa notare, ha un fisico possente, l'abbiamo detto, 1,87 per 80 kg, massiccio come un difensore, che però non è un difensore. Ha l'abilità nel dribbling, ha il tiro potente di un attaccante, ma non è un attaccante, è un centrocampista. Gioca con il numero 7, il numero di George Best e poi di Cantona, insomma un numero da fantasista, quasi come il numero 10. Però in quei tempi il numero 7 stava sulla fascia, quindi si aspettano un'ala veloce e invece lui non è neanche quello, è tutto quello, tante cose messe assieme. Insomma, è un giocatore imprevedibile che ha un controllo di palla e una potenza che gli permettono di fare quello che vuole col pallone. La prima stagione nelle giovanili segnai 59 gol e allora pensai, sì, ce la posso fare. E da allora le cose sono diventate sempre più facili nelle stagioni successive. 4 novembre 1986 a The Dell scende il Manchester United e il Southampton lo travolge per 4-1. Matthew Letissier, che ha iniziato da poco a giocare in prima squadra, segna la sua prima doppietta e i tifosi lo notano subito. Lui che smista palloni a centrocampo, fornisce assist e poi ha il coraggio di partire a testa bassa contro 3 avversari, 4, riesce a superarli. E poi nell'87 c'è la prima tripletta contro il Leicester e l'allenatore non lo fa giocare molto, ma lui comincia a conquistare i suoi tifosi che gli danno dei soprannomi: The Tiss, The Kiss, The Magician. Lui, però, come dice il suo cognome francese, è un tessitore che crea una ragnatela in cui imprigiona gli avversari che non riescono a contrastare. La stagione 1989-90 è una stagione storica perché il Southampton arriva settimo, e per una squadra così, insomma, non di alte pretese, è veramente un piazzamento importantissimo, ma bisogna dire che in quella squadra c'erano giocatori come Wallace, Rideout, e soprattutto al centro dell'attacco c'era un altro mito del quale un giorno o l'altro dovremo parlare, Alan Shearer. E poi c'è lui, c'è Letizia, che stupisce tutti perché ha uno stile di gioco veramente particolare. Sembra che in campo sia fermo e il suo fisico non gli permette di essere rapido, sgusciante, però quando la palla arriva lui non si stacca dal suo piede, lui si guarda in giro, si sposta e il pallone lo segue, poi accelera, supera un avversario, poi magari un altro, poi arriva a 20 metri dalla porta e tira, e il suo tiro è forte, buca le mani del portiere, gira con un effetto innaturale, si infila negli angoli e i tifosi urlano solo il suo nome. Drops to Letizia. Oh, what about that? What a start by Southampton! E quell'anno viene premiato come il miglior giovane del campionato. Cominciano a muoversi le grandi squadre. Il Liverpool presenta un'offerta da 2 milioni di sterline. Lui ringrazia e dice no. Southampton gli piace, non ha nessuna voglia di fare le valigie. Principalmente ci furono motivi familiari. Avevo ancora 21 anni, erano solo 4 anni che giocavo in prima divisione e quella era stata la mia prima stagione da titolare. Semplicemente non pensavo che fosse ancora il momento di andare via. Beh, avete sentito, dice, erano solo 4 anni che giocavo in Serie A. Qui, c'è gente che dopo 8 partite in Serie A già spera di andare al Real Madrid, al Manchester, al Chelsea. E allora c'erano uomini come lui, rimane, se ne va l'allenatore, ne arriva uno che si chiama Jan Brandfoot, che passerà la storia come il più odiato allenatore dei Saints. Il gioco non è più spettacolare, Letizia viene messo in panchina, è l'ennesima storia di mobbing da parte di un allenatore ai danni del suo giocatore più talentuoso, e io ne ho viste tante. Comunque viaggia una buona media, 20 gol a stagione, che è tantissimo per un centrocampista, ma il rapporto con l'allenatore lo penalizza. Poi finalmente nel 94 la musica cambia di nuovo, Brentford viene sostituito da un grande ex giocatore, Alan Ball, peraltro è una vecchia gloria del Southampton, e qui cambia tutto. Quando arrivò Ball fece una cosa che nessun altro manager fino a quel momento aveva mai fatto: costruire l'intera squadra attorno a me. Secondo lui la cosa migliore da fare era giocare la palla sempre su di me e passarmela in ogni occasione. Io ho scritto anche una canzone dove dice: datemi il pallone, non parlate, poi correte ad abbracciarmi. Insomma, tutta la squadra si adopera per dare la palla a lui, a Matthew Letizia. Lui fa tre cose: stop, controllo e tiro. In questo modo segna 30 gol in una stagione, arriva la chiamata in nazionale e soprattutto arriva il nuovo soprannome, Le God, il Dio. Il Falco. Il Gabbiano. Stiamo raccontando una storia veramente anomala per il mondo del calcio, la storia di Matt Letizia, il calciatore originario dell'isola di Guernsey, che gioca per tutta la sua carriera nella squadra del Southampton e quindi si preclude la possibilità di aspirare a vincere titoli nazionali, campionati, coppe europee, di giocare nei grandi palcoscenici, perché lui riesce a trovare la giusta dimensione accontentandosi di quell'ambiente dove non c'è pressione, dove era possibile allenarsi la mattina, trovarsi con gli amici, al pomeriggio magari andare lontano dai riflettori, stare in mezzo alla gente. Southampton è arrivato un nuovo allenatore, Alan Ball, che costruisce la squadra attorno a lui, che con le sue giocate, con i suoi colpi di genio ha da poco conquistato il soprannome di Le God, perché i tifosi sono tutti con lui e lui è il Dio. Ball ha una visione del calcio molto simile a quella di Letizia, non è necessario esagerare troppo con gli allenamenti, alla fine si rischia solo di ottenere il risultato contrario. Una delle sue più grandi convinzioni era quella di non allenarsi troppo, e questo era perfetto per me. Avevo la squadra costruita intorno a me, un allenatore che pensava fossi il miglior giocatore e non pretendeva che mi allenassi duramente ogni giorno. C'erano le mattine che alle 12:30 ero già su un campo da golf. Fantastico. Eh sì, tenete conto che oggi le squadre fanno degli allenamenti durissimi perché l'allenatore ne ha 25-28 e quindi i giocatori non è che si allenano, devono convincere l'allenatore che sono loro i più in forma, quindi si ammazzano tutta la settimana. E invece lui il posto in squadra ce l'aveva, anzi aveva una squadra che ruotava attorno a lui e doveva correre solo il sabato quando si giocava. E poi nel 95 arriva la soddisfazione di essere chiamato in nazionale, c'è un amichevole contro l'Irlanda. Va detto che lui, essendo nato nell'isola di Guernsey, a meno di 20 km dalla costa francese, aveva la possibilità di scegliere, intanto di scegliere se vestire la maglia dell'Inghilterra, del Galles, della Scozia o dell'Irlanda del Nord, perché così funzionava, ma poteva anche forse diventare un francese. Infatti la Francia di Platini vuole arruolarlo in nazionale, ma Letizia ha le idee chiare, nulla può fargli cambiare idea. Avevo due desideri da realizzare nella mia vita: diventare un giocatore professionista e giocare per la nazionale inglese. Era ciò che desideravo di più da bambino. E allora il sogno di questo bambino diventa finalmente realtà, anche se è un sogno che non dura molto, perché la concorrenza è spietata. E poi a allenare la nazionale c'è Glenn Hoddle, che lo mette alla prova nella nazionale B, segna un gol contro la Russia, lo illude, poi lo lascia a casa e non lo convoca per la fase finale del mondiale. È quel mondiale Francia 98 in cui l'Inghilterra verrà eliminata dall'Argentina ai calci di rigore, e forse uno come Letizia avrebbe anche fatto comodo. La cosa che mi divertiva di più era tirare i rigori. Così ogni volta che ci veniva dato un rigore, certo, ero nervoso, mi si rivoltavano le budella, ma pensavo che fosse la miglior occasione di segnare un gol, e così posavo il pallone sul dischetto e pensavo a una sola cosa: il gol. 49 rigori tirati, 48 realizzazioni. L'unico portiere che riesce a parare un rigore all'Etisier è stato Mark Crossley del Nottingham Forest, che il 24 marzo del 93, lo dico perché è una data storica, intuisce il tiro e lo respinge tra lo stupore dei tifosi. E con la maglia bianco-rossa del Southampton, Letizia segna 161 gol in 443 partite, giocando da centrocampista, una media di 30 gol a stagione. E segna in tutti i modi possibili, intanto su rigore, anche su punizione, perché riesce a dare un effetto incredibile, aggira la barriera e spesso colpisce il palo interno e poi la palla va dentro. Ci sono alcune perle che rimangono nella cineteca dei miglior gol realizzati nella storia del campionato inglese, e lui c'è spesso. C'è un pallonetto da metà campo contro il Manchester United, un tiro da 40 metri con cui trafigge il portiere del Blackburn nel 93-94, insomma ci sono dei gol. Questo per esempio gli frutta il premio come miglior realizzatore dell'anno, come gol più bello dell'anno. Il problema naturalmente è che giocando in una squadra come il Southampton sono tutti gol che servono quasi sempre a allontanare la paura della retrocessione, non sono gol che servono per andare in Champions League o addirittura per vincere il campionato. Ma lo sappiamo, per lui questa è stata una scelta di vita. La gente spesso mi chiede se mi piaceva essere il pesce più grande di un piccolo acquario, e io ho sempre detto di sì. Mi piaceva essere sempre al centro dell'attenzione e mi piaceva che la gente si aspettasse grandi cose da me. È difficile trovare un paragone in Italia con Letizia. Forse, a parte la rima, potrebbe essere Pellissier, che dal 2002 gioca nel Chievo, che ha avuto la gioia di una sola convocazione in nazionale. Se no, bisogna risalire agli anni 60, agli anni 70, quando c'erano veramente questi simboli anche nelle squadre non di primissima fascia, e se no bisogna andare a Totti e Zanetti e Maldini. Letizia ha vissuto una carriera piena di grandi soddisfazioni personali, perché è stato sempre amato, idolatrato, abbracciato idealmente dai tifosi, che non l'hanno mai messo in discussione. Spesso andavano allo stadio solo per vedere quale magia, quale colpo d'ala sarebbe riuscito a tirar fuori dal cilindro. Non voglio deludere le persone e ho sempre cercato di far divertire il pubblico. Vincere è importante, ma per me non è la cosa fondamentale. Non sopporto quelli che pensano soltanto bisogna vincere, vincere, vincere. Certo, non mi piace perdere, ma c'è una parte di me che vuole rendere felice la gente, magari tirando una palla nell'angolino da 30 metri. La carriera di Matt Letizia si conclude nel 2002, ma c'è ancora una pagina di storia che lui deve scrivere, perché il 19 maggio 2001 si gioca l'ultima partita del campionato. Arriva l'Arsenal, il Southampton è ottavo, ma non è quello che interessa i tifosi. È la sensazione forte di quel giorno che dopo 103 anni va in pensione The Dell, lo storico stadio nel quale i Saints hanno sempre giocato. Letizia è il capitano, anche se è iniziata una staffetta, spesso non gioca tutti i 90 minuti, ma quel giorno è un giorno speciale e loro vogliono vedere Matt Letizia, il loro idolo, giocare per l'ultima volta nello stadio prossimo alla demolizione. L'allenatore li accontenta perché nel secondo tempo dal tunnel esce la maglia numero 7 di Matt Letizia. Eravamo all'88esimo minuto sul 2-2. La palla mi arriva sul sinistro proprio al limite dell'area. Io ho le spalle alla porta, ma mi giro e calcio, sapendo esattamente dove sarebbe andata a finire la palla. È stato un momento fantastico, perché sapevo di aver segnato l'ultimo gol nello stadio che tutti dovevano salutare per l'ultima volta. E vedete che storie meravigliose che sa scrivere il calcio. Come un regista occulto, il dio del calcio fa sì che l'ultimo gol nel secolo abbondante, nei 103 anni di quello stadio, venga segnato proprio da lui. The God, Le God, il dio di Southampton. La folla esplode, è un boato nel quale entrano tutti i fattori, perché insomma sappiamo quanto gli inglesi siano tradizionalisti, legati alle loro radici, quindi quanto probabilmente quel pubblico stesse soffrendo per lo stadio da demolire. E intanto lui gioca tutta la sua carriera lì, quindi rifiuta offerte milionarie dal Tottenham, dal Chelsea, dal Manchester United. È uno che è stato di ispirazione per molti campioni. Lo spagnolo Xavi, per esempio, ha detto più volte di avere scelto di fare il calciatore dopo aver visto giocare Matthew Letizia. È uno che, finita la carriera, non poteva andare a stressarsi a fare l'allenatore e fa il commentatore televisivo perché vuole divertirsi ancora. You got me kidding. It's the best job in the world. Scherzi, è il miglior lavoro del mondo. È come andare in un pub con gli amici e parlare di calcio per ore. E anche se sono tanti anni che non gioco più, ho ancora il modo di dimostrare quanto ami questo gioco e la passione che dimostro per il calcio e per le nostre squadre. E questo aiuta anche il programma ad avere successo. Vedete, questo è il calcio che ci piace, non il calcio di quelli che hanno l'ossessione per la vittoria, che la vogliono raggiungere anche magari a tutti i costi, a qualsiasi prezzo e a qualsiasi condizione. Questa è una storia di uomini veri. Matt Letizia è un uomo vero che alle coppe e soprattutto ai milioni di sterline preferisce la sua realtà a Southampton. È una storia che dovrebbe essere fatta sentire a tutti quei ragazzi che vedono il calcio come una rivalsa sociale. Il calcio è molto di più. E noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalare via mail al falcoelgabbiano@radio24.it se anche voi conoscete una storia che merita di essere raccontata, oppure interagite con me sul sito di Radio 24, su Facebook, su Twitter, sui miei social, su quello che volete, perché tanto lo sapete che se mi cercate mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.